Ma come? Volete dire con chi avete intenzione di lasciarla sposare? Nella sua mente, Mrs. Cadwallader passava rapidamente in rassegna le possibili scelte di Dorotea. Ma a questo punto entrò Celia, resa raggiante da una passeggiata in giardino, e i convenevoli disimpegnarono Mr. Brooke dall'obbligo di rispondere lì per lì. Si alzò in fretta e dicendo: "A proposito, devo parlare a Wright dei cavalli", se la svignò svelto dalla stanza. "Mia cara bambina, cosa sento? Questa storia del fidanzamento di vostra sorella", chiese Mrs. Cadwallader. "Ha dato la promessa di sposare Mr. Casebo", disse Celia, ricorrendo come di consueto alla più semplice esposizione del fatto e grata per questa occasione di parlare con la moglie del pastore da sola. "È spaventoso! Da quando è che la faccenda va avanti?" "Io l'ho saputo solo ieri. Si devono sposare fra 6 settimane." "Beh, mia cara, vi auguro ogni gioia da vostro cognato." "Sono così addolorata per Dorotea." "Addolorata? È stata lei a volerlo, suppongo." "Sì, dice che Mr. Casebo è una grande anima." "Glielo auguro con tutto il cuore." "Oh, Mrs. Cadwallader, non credo che sia bello sposare un uomo con una grande anima." "Bene, mia cara, vi serva di lezione. Adesso sapete che aspetto ha. Quando arriva il prossimo e vuole sposarvi, non accettatelo." "Sono certa che non lo farei mai." "No, uno di loro in famiglia abbastanza. Così Sir James Chatham non è mai interessato a vostra sorella. Cosa avreste detto di lui per cognato?" "La cosa mi sarebbe piaciuta moltissimo. Sono sicura che sarebbe stato un buon marito. Solo", aggiunse Celia con un lieve rossore, talvolta sembrava arrossire mentre respirava, "non credo che sarebbe andato bene per Dorotea. Non è abbastanza altolocato?" "Dodo è assai rigorosa. Pensa tanto a tutto ed è così esigente su ciò che uno dice. Mi è parso che Sir James non le sia mai piaciuto." "Lei deve averlo incoraggiato, ne sono certa. Questo non è molto lodevole. Vi prego, non prendetevela con Dodo. Lei non si accorge di certe cose. Faceva tanti progetti per i cottage e qualche volta è stata sgarbata con Sir James. Ma lui è così gentile che non ci ha mai fatto caso." "Bene", fece Mrs. Cadwallader, indossando lo scialle e alzandosi come se fosse di fretta. "Devo andare direttamente da Sir James e comunicargli la notizia. Oramai dovrebbe aver riportato a casa la madre e devo passare a fargli visita. Vostro zio non glielo dirà mai. Siamo tutti delusi, mia cara. Giovani dovrebbero pensare alle proprie famiglie quando si sposano. Io ho dato il cattivo esempio, ho sposato un povero prete e mi sono resa oggetto di compassione fra i Debracy, obbligata a procurarmi il carbone con degli stratagemmi e a pregare il cielo che mi faccia avere l'olio per l'insalata. Però Casebo ha abbastanza denaro, questo devo riconoscerglielo. Quanto alla sua nobiltà, credo che lo stemma della famiglia abbia 3 seppie nere e un commentatore rampante. A proposito, prima che me ne vada, mia cara, devo parlare con la vostra Mrs. Carter dei pasticcini. Voglio mandare la mia giovane cuoca a imparare da lei. Dei poveretti con 4 figli, come noi, capite? Non si possono permettere di tenere una brava cuoca. Sono sicura che Mrs. Carter mi farà il favore. La cuoca di Sir James è una dragonessa in persona. In meno di un'ora, Mrs. Cadwallader aveva blandito Mrs. Carter ed era giunta in carrozza a Freshitt Hall, che non era lontano dalla sua canonica, siccome il marito risiedeva a Freshitt e teneva un coadiutore a Tipton. Sir James Chatham era ritornato dal breve viaggio che lo aveva fatto assentare per un paio di giorni e si era cambiato d'abito con l'intenzione di fare una cavalcata fino a Tipton Grange. Il suo cavallo era alla porta quando Mrs. Cadwallader si avvicinò nel suo phaeton ed egli comparve immediatamente, frustino in mano. Lady Chatham non era ancora tornata, ma la commissione di Mrs. Cadwallader non poteva essere sbrigata alla presenza degli staffieri, perciò gli chiese di accompagnarla nella serra lì vicino per osservare le nuove piante e nell'assumere una posizione contemplativa disse: "Ho da comunicarvi una brutta notizia. Spero che non siate innamorato al punto che dicevate." Era inutile protestare contro il modo di esprimersi di Mrs. Cadwallader, ma l'espressione di Sir James cambiò un poco. Si sentì vagamente allarmato. "Credo davvero che Brooke, dopo tutto, abbia intenzione di gettare la maschera. L'ho accusato di volersi presentare a Middlemarch nel Partito Liberale e lui ha fatto la faccia da sciocco e non l'ha negato. Ha parlato dell'atteggiamento degli indipendenti e delle solite sciocchezze." "Tutto qui", fece Sir James assai sollevato. "Ma come?" dibatté Mrs. Cadwallader con accento più acuto. "Non mi direte che vi piacerebbe che si desse alla vita pubblica in questo modo, riducendosi a una specie di venditore ambulante di idee politiche? Lo si potrebbe dissuadere, credo, le spese non gli andrebbero." È quello che gli ho detto io. Su questo punto c'è della ragione. C'è sempre qualche grano di buonsenso in un'oncia di spilorceria. La spilorceria ha un'eccellente qualità quando ricorre nelle famiglie, è il lato sicuro dal quale la follia si può sfogare. E ci si deve essere una piccola incrinatura nella famiglia Brooke, altrimenti non vedremo quello che ci tocca vedere. Cosa? Brooke candidato per Middlemarch? Peggio. In verità mi sento un poco responsabile. Gli ho sempre detto che Miss Brooke sarebbe stata un così buon partito. Sapete che aveva un sacco di stupidaggini per la testa, una specie di capriccioso metodismo. Ma queste cose poi le ragazze le superano. Però una volta tanto sono presa di contropiede. Che cosa volete dire, Mrs. Cadwaller? Fece Sir James. Il suo timore che Miss Brooke fosse fuggita per unirsi ai fratelli Moravi o a qualche assurda setta sconosciuta alla buona società fu un po' alleviato dalla consapevolezza che Mrs. Cadwaller vedeva sempre tutto nero. Cos'è successo a Miss Brooke? Vi prego, parlatemi francamente. Molto bene. Si è fidanzata. Mrs. Cadwaller tacque per qualche momento, osservando l'espressione profondamente offesa sul volto dell'amico, che questi tentava di nascondere con un sorriso nervoso mentre si frustava lo stivale, ma subito dopo aggiunse: fidanzata con Kesavo. A Sir James cascò il frustino di mano e si chinò per raccoglierlo. Forse sul suo volto non si era mai accumulato un disgusto così intenso come quando si rivolse a Miss Cadwaller e le fece eco. Kesabo! Proprio così. Adesso conoscete la mia commissione. Buon Dio, è orribile! Non è altro che una mummia! Da un tal punto di vista bisogna concederglielo in quanto rivale ai tante deluso. Ha una grande anima, dice lei, una gran vescica in cui gragnolano dei piselli secchi, disse Mrs. Cadwaller. Che interesse ha un vecchio scapolo come lui a sposarsi? Disse Sir James. Ha un piede nella tomba. Vuole tirarlo fuori, suppongo. Brooke non dovrebbe permetterlo. Dovrebbe insistere per rimandare il matrimonio finché lei non è maggiorenne. Allora la penserebbe diversamente. Perché è il suo tutore, altrimenti. Come se si potesse mai cavare una decisione da Brooke. Cadwaller potrebbe parlargli. Lui? Oh no! Humphrey trova affascinante ogni persona, non riesce mai a indurla a parlare di Kesabo. Addirittura parla bene del vescovo, per quanto gli dica che è innaturale in un beneficiario. Cosa si può fare di un marito che si cura così poco delle convenienze? Io nascondo la cosa come posso, sparlando di tutti io stessa. Andiamo, andiamo, su col morale. È una fortuna che vi siate liberato di Miss Brooke, una ragazza che avrebbe preteso che vedeste le stelle alla luce del mattino. Si è detto fra noi, la piccola Celia vale il doppio di lei. Ed è probabile che tutto sommato sia il partito migliore. Perché questo matrimonio con Kesabo equivale a entrare in un convento. Oh, per conto mio! È per il bene di Miss Brooke che penso che i suoi parenti dovrebbero cercare di esercitare la loro influenza. Beh, Humphrey non lo sa ancora, ma quando glielo dirò ci potete scommettere che risponderà? Perché no? Kesabo è una brava persona, è giovane, abbastanza giovane. Questa gente caritatevole non distingue l'aceto dal vino finché non l'ha ingoiato e si è preso una colica. Però, se fossi un uomo, preferirei Celia, soprattutto quando Dorotea se ne sarà andata. Il fatto è che avete corteggiato una e conquistato l'altra. Ho capito che lei vi ammira quasi quanto un uomo si aspetta di essere ammirato. Se fosse chiunque altro a dir questo, la potreste credere un'esagerazione. Arrivederci. Sir James accompagnò Mrs. Cadwaller dandole la mano e poi balzò sul suo cavallo. Non aveva intenzione di rinunciare alla cavalcata a causa delle notizie sgradite recategli dall'amica, solo di cavalcare tanto più velocemente in una direzione diversa da quella di Tipton Grange. Ora, perché mai Mrs. Cadwaller avrebbe dovuto impicciarsi tanto del matrimonio di Miss Brooke e perché? Quando un matrimonio in cui amava credere di averci lo zampino era andato a monte, avrebbe dovuto immediatamente escogitare le premesse per un altro. Osservando attentamente con un cannocchiale, si sarebbe potuto scoprire una qualche trama ingegnosa, una qualche condotta simile a un gioco a rimpiattino. Proprio per niente. Un cannocchiale avrebbe potuto spazzare le parrocchie di Tipton e di Freshitt, l'intera zona visitata da Mrs. Cadwaller sul suo phaeton, senza essere testimone di alcun colloquio che avrebbe potuto suscitare sospetti o alcuna scena da cui essa non ritornasse con lo stesso occhio acuto e imperturbabile e lo stesso intenso colorito naturale. In effetti, se quel conveniente veicolo fosse esistito al tempo dei sette saggi, uno di essi avrebbe senza dubbio affermato che ben poco si può sapere delle donne, seguendole nelle loro escursioni in feto. Persino con un microscopio puntato su una goccia d'acqua ci troviamo a dare delle interpretazioni che si rivelano piuttosto approssimative, perché mentre sotto una lente debole vi può sembrare di vedere un essere con un'attiva voracità, verso il quale si dirigono attivamente altri esseri più minuscoli, come se fossero tanti tributi animati. Una lente più forte vi rivelerà certi peluzzi minutissimi che imprimono un movimento vorticoso a queste vittime, mentre l'essere che ingoia attende passivamente di ricevere quanto gli è dovuto. In questo modo, metaforicamente parlando, una lente potente diretta sull'attività di paraninfa di Mrs. Cadwallader rivelerà un gioco di cause minute che producono quelli che si possono chiamare vortici di pensiero e di parole che le portano il genere di cibo che le abbisogna. La sua vita era di una semplicità agreste, del tutto scevra da segreti brutti, pericolosi o comunque importanti, e assolutamente estranea alle grandi faccende del mondo. Le faccende del gran mondo la interessavano soprattutto quando erano comunicate nelle lettere di parenti di alto lignaggio, come affascinanti figli cadetti si erano rovinati sposando le loro amanti, la bella idiozia ereditaria del giovane Lord Tapir e le furiose stravaganze gottose del vecchio Lord Megatherium, l'esatto incrociarsi di genealogie che avevano portato una corona nobiliare a un nuovo ramo e ampliato i rapporti scandalosi. Questi erano argomenti di cui essa ricordava i particolari con la massima accuratezza e li riproduceva in un'eccellente salsa di epigrammi, di cui lei stessa gioiva tanto più perché credeva nella nobiltà e nella non nobiltà di nascita, con la medesima sicurezza con cui credeva nella selvaggina e nei parassiti. Non avrebbe mai rinnegato alcuno a causa della miseria. Un debrese ridotto a consumare la propria cena in una scodella le sarebbe sembrato un esempio patetico, degno di essere esagerato, e temo che i suoi vizi aristocratici non l'avrebbero fatta inorridire. Ma il suo sentimento verso i ricchi plebei era una sorta di odio religioso. Probabilmente avevano accumulato tutto il loro denaro, praticando alti prezzi al dettaglio. E Mrs. Cadwallader detestava i costi alti di tutto ciò che non veniva pagato in natura alla parrocchia. Gente simile non faceva parte del disegno di Dio quando aveva creato il mondo, e il loro accento era un'afflizione per l'udito. Una città in cui tali mostri brulicavano non era altro che una specie di bassa commedia, di cui non si poteva tener conto in un piano decente dell'universo. Qualsiasi signora incline a un giudicare con durezza Mrs. Cadwell, indaghi la totalità delle sue belle opinioni e si accerti bene se in esse ci sia posto per tutte le vite che hanno l'onore di coesistere con la sua. Con una tale mente, attiva come il fosforo, che intaccava tutto ciò che le veniva vicino, dando adesso la forma che le faceva comodo. Come avrebbe potuto Mrs. Cadwallader pensare che le signorine Brooke e le loro prospettive matrimoniali non la riguardavano? Tanto più che da anni era una consuetudine rimproverare Mr. Brooke con la franchezza più amichevole e rivelargli in confidenza che lo considerava una persona mediocre. Dal primo momento in cui le due signorine erano giunte a Tipton, essa aveva premeditato il matrimonio di Dorothea con Sir James, e se avesse avuto luogo si sarebbe potuto dire con certezza che era opera sua. Il fatto che non avrebbe avuto luogo, dopo che lei l'aveva organizzato, le suscitò un'irritazione che troverà compressione in ogni persona riflessiva. Era lei, la diplomatica di Tipton, e Freshitt, e qualsiasi cosa che accadesse contro il suo volere era un'irregolarità offensiva. Quanto a schiribizzi come questo di Miss Brooke, Mrs. Cadwallader non li sopportava e ora si rese conto che nella sua opinione su questa ragazza si era lasciato influenzare leggermente dalla caritatevolezza smidollata del marito. Quei capricci da metodista, quell'aria di essere più religiosa del parroco e del curato messi insieme, erano il sintomo di un male più profondo e connaturato di quanto fosse stata incline a credere. Comunque, disse Mrs. Cadwallader dapprima a se stessa e poi al marito, io me ne lavo le mani. Se avesse sposato Sir James, avrebbe avuto la possibilità di diventare una donna sana di mente e sensata. Lui non l'avrebbe mai contraddetta, e quando una donna non viene mai contraddetta, non ha motivo di ostinarsi nelle sue assurdità. Ma adesso le auguro che goda del suo cilicio. Come conseguenza, Mrs. Cadwallader dovette scegliere un altro partito per Sir James e aveva deciso che doveva essere la minore delle Miss Brooke. Non avrebbe potuto compiere un passo più abile per il successo del suo piano che accennare al baronetto che questo aveva lasciato un segno nel cuore di Celia. Perché costui non era uno di quei gentiluomini che si distruggono per l'irraggiungibile pomo di Saffo, che se la ride dal ramo più alto, le attrattive che sorridono come il ciuffo di primule sulla rupe, inafferrabili dalla mano bramosa. Egli non aveva sonetti da scrivere e non poteva colpirlo gradevolmente il fatto di non essere oggetto di preferenza per la donna che egli aveva preferito. Già la consapevolezza che Dorothea aveva scelto Mr. Casab aveva offeso la sua devozione e ne aveva allentato la presa. Sebbene Sir James fosse un uomo amante degli sport, i suoi sentimenti per le donne erano divisi da quelli che provava per i galli, i cedroni e le volpi, e non considerava la propria futura moglie come una preda, preziosa soprattutto per l'orgasmo dell'inseguimento. Ne era edotto sulle abitudini delle razze primitive, al punto da credere che un combattimento ideale per lei, tomahawk in pugno, per così dire, fosse necessario per la continuità storica del vincolo matrimoniale. Al contrario, essendo dotato di quella amabile vanità che ci lega a coloro che si sono affezionati e ci disamora da chi è insensibile verso di noi, nonché di una buona indole riconoscente, la semplice idea che una donna nutrisse simpatia per lui intesseva dei piccoli fili di tenerezza che dal suo cuore andavano a quello di lei. Così accadde che dopo che Sir James ebbe cavalcato piuttosto velocemente per mezz'ora in direzione opposta a quella di Tipton Grange, frenò l'andatura e infine imboccò una strada che attraverso una scorciatoia lo riportava indietro. Vari sentimenti lo condussero alla decisione finale di andare alla Grange quel giorno come se nulla fosse accaduto. Non poté fare a meno di gioire al pensiero che non aveva mai fatto una proposta e che non era stato rifiutato. La semplice cortesia che esiste fra amici imponeva che andasse a trovare Dorothea per informarsi sui cottage. Ed ora la fortuna aveva voluto che Mr. Cadwallader lo avesse preparato a offrire le proprie congratulazioni se necessario, senza mostrarsi granché imbarazzato. In verità la cosa non gli piaceva. Rinunciare a Dorothea era assai doloroso. Ma la decisione di compiere questa visita immediatamente e soffocare ogni emozione che potesse trasparire aveva per lui l'effetto di un morso di lima e di un revulsivo. E senza che se ne rendesse conto distintamente, in lui era certo presente l'idea che Celia sarebbe stata là e che le avrebbe rivolto maggiori attenzioni di quanto non avesse fatto in precedenza. Noi mortali, uomini e donne, fra l'ora di colazione e quella di cena, ingoiamo molte delusioni. Tratteniamo le lacrime e ci facciamo un po' pallidi attorno alle labbra. E per tutta risposta che ci chiede qualcosa diciamo: oh, nulla. L'orgoglio ci aiuta e l'orgoglio non è male quando ci spinge soltanto a nascondere le nostre ferite e a non ferire gli altri. Capitolo 7. Mr. Casebo, come c'era da aspettarsi, trascorse in quelle settimane gran parte del suo tempo alla Grange e l'intralcio che il corteggiamento rappresentava per il progresso della sua grande opera, la chiave di tutte le mitologie, naturalmente gli faceva pregustare con impazienza ancora maggiore il felice termine del corteggiamento. Ma aveva affrontato deliberatamente questo intralcio, dopo aver deciso che ormai era tempo di abbellire la propria vita delle grazie della compagnia femminile, di illuminare le tenebre che la stanchezza tendeva a distendere sugli intervalli della sua diligente fatica col gioco della fantasia femminile e di assicurarsi ora, nella piena maturità, il conforto dell'assistenza femminile per gli anni del declino. Per questo decise di abbandonarsi al flusso del sentimento e forse fu sorpreso nello scoprire che torrentello poco profondo fosse. Come nelle regioni aride, il battesimo per immersione poteva venir celebrato in forma simbolica. Così Mr. Casabo si rese conto che una spruzzata era quanto di più vicino a un'immersione gli permettesse il suo ruscello e approdò alla conclusione che i poeti avevano assai esagerato la violenza della passione maschile. Con tutto ciò osservò con piacere che Miss Brooke mostrava un ardente affetto sottomesso che prometteva di realizzare le sue più rosee previsioni in merito al matrimonio. Un paio di volte gli era passato per il capo che forse in Dorothea c'era qualche difetto che poteva spiegare la tiepidezza del proprio slancio, ma non fu in grado di scoprire il difetto o di immaginare una donna che gli sarebbe piaciuta maggiormente. Così che fu chiaro che non vi era alcuna spiegazione a cui ricorrere tranne le esagerazioni della tradizione. Non potrei cominciare ora a prepararmi a essere più utile? una mattina gli disse Dorotea, nei primi tempi del corteggiamento. Non potrei imparare a leggervi ad alta voce in latino, in greco, come facevano le figlie di Milton col padre, senza capire ciò che leggevano. Temo che vi stancherebbe, disse Mr. Casebo sorridendo. E in effetti, se ben ricordo, le ragazze che avete citato considerarono quell'esercizio in una lingua ignota un buon motivo per ribellarsi al poeta. Sì, ma in primo luogo erano ragazze assai disubbidienti, altrimenti sarebbero state orgogliose di servire a un tale padre. E in secondo luogo avrebbero potuto studiare privatamente e imparare a capire quello che leggevano, e poi sarebbe stato interessante. Spero che voi non mi crediate disubbidiente e stupida. Spero che voi siate tutto ciò che può essere una squisita signorina in ogni possibile momento della vita. Certo, sarebbe un grande vantaggio se riusciste a copiare i caratteri greci e a questo scopo sarebbe bene cominciare con un po' di lettura. Questo Dorotea lo prese come un prezioso permesso. Non avrebbe chiesto subito a Caesabo di insegnarle le lingue, temendo più di ogni altra cosa di essere seccante invece che utile. Ma non era soltanto per devozione verso il futuro marito che desiderava imparare il greco e il latino. Questi campi del sapere maschile le sembravano un terreno sicuro da cui ogni verità si poteva scorgere con maggiore chiarezza. Allo stato dei fatti, ella dubitava costantemente delle proprie conclusioni, perché si rendeva conto della propria ignoranza. Come poteva presumere che dei cottage di una stanza non fossero fatti per la gloria di Dio, quando degli uomini che conoscevano i classici sembravano conciliare l'indifferenza verso i cottage col fervore per la gloria? Forse sarebbe potuto essere necessario anche l'ebraico, almeno l'alfabeto e alcune radici, per giungere al nocciolo delle cose e a un giudizio assennato sui doveri sociali del cristiano. E lei non aveva raggiunto tanta capacità di rinuncia da accontentarsi di avere un marito saggio. Desiderava, povera bambina, essere saggia anche lei. Miss Brooke era certo assai ingenua, nonostante tutta la sua presunta intelligenza. Ceglia, le cui capacità mentali non erano mai state considerate superiori, si accorgeva della vacuità delle ambizioni altrui con assai maggiore prontezza. Avere in generale solo un po' di sentimento sembra l'unica salvaguardia contro un eccessivo coinvolgimento sentimentale in qualsiasi particolare occasione. Tuttavia, Mr. Casaubon consentì ad ascoltarla e ad insegnarle per un'ora in tutto, come un maestro di ragazzini, o meglio come un innamorato per il quale l'elementare ignoranza e le difficoltà dell'innamorata rappresentano una toccante opportunità. A pochi studiosi sarebbe dispiaciuto insegnare l'alfabeto in simili circostanze, ma Dorotea stessa fu un poco colpita e scoraggiata dalla propria stupidità, e le risposte che ricevette a qualche timida domanda sul valore degli accenti greci le instillò il penoso sospetto che lì, in realtà, ci potessero essere dei segreti non suscettibili di spiegazioni a una mente femminile. Mr. Brooke non nutriva dubbi su questo punto e si espresse a riguardo con la consueta fermezza un giorno in cui entrò in biblioteca mentre la lettura procedeva. Beh, andiamo, Casaubon, degli studi così profondi, classici, la matematica, quel genere di roba lì, sono troppo faticosi per una donna. Troppo faticosi, capite? Dorothea sta semplicemente imparando a leggere i caratteri, fece Mr. Casaubon eludendo la domanda. Ha avuto il pensiero assai premuroso di risparmiarmi la vista. Ah, beh, senza capire, dite. Questo forse non è così male, ma la mente femminile è delicata, insicura. La musica, le belle arti, quel genere di roba dovrebbero studiare quelle fino a un certo punto, le donne, ma in misura moderata, capite? Una donna dovrebbe essere in grado di sedersi e cantarvi e suonarvi una bella e antica melodia inglese. Ecco cosa mi piace. Sebbene abbia sentito la maggior parte delle cose, sono stato all'opera a Vienna. Gluck, Mozart, tutto di quel genere lì. Ma in musica sono un conservatore, non è come le idee, capite? Ne rimango affezionato alle belle melodie di un tempo. A Mr. Casaubon non va il pianoforte. E io ne sono assai felice, disse Dorotea, a cui si deve perdonare la scarsa considerazione per la musica domestica e le belle arti femminili, considerando che in quell'oscuro periodo consistevano soprattutto in qualche tintinnio, in qualche imbrattatura. Essa sorrise e alzò lo sguardo verso il fidanzato con occhi grati. Se mai le avesse chiesto di suonare l'ultima rosa d'estate, lei avrebbe dovuto fare appello a una buona dose di sottomissione. Mi dice che a Lowick c'è solo un vecchio clavicembalo e sopra ci sono dei libri. Ah, allora in questo caso sei meno brava di Celia, mia cara. Celia, ecco, suona con molta grazia ed è sempre disposta a suonare. Però, dal momento che a Casabo non piace, fai benissimo. È un peccato che non vi abbandoniate a svaghi di questo genere, Casabo. l'arco sempre in tensione, quel genere di roba, capite? Non va bene. Non sono mai riuscito a considerare uno svago farmi tormentare i timpani dei rumori cadenzati, disse Mr. Casabo. Una melodia ripetuta più volte al ridicolo effetto di far eseguire alle parole che ho in testa una specie di minuetto per seguire il tempo. Un effetto intollerabile, penso, dopo la fanciullezza. Quanto alle forme superiori di musica, degne di servire d'accompagnamento durante le celebrazioni solenni e di possedere addirittura un'influenza educatrice secondo i concetti degli antichi, non dico nulla, poiché esse non ci riguardano immediatamente. No, ma la musica di quel genere mi piacerebbe, disse Dorotea. Quando stavamo tornando in patria da Losanna, mio zio ci portò a sentire il grande organo di Friburgo e mi fece singhiozzare. Questo genere di cose non è sano, mia cara, disse Mr. Brooke. Casabo, ora sarà nelle vostre mani, dovete insegnare a mia nipote a prendere le cose con maggiore tranquillità. E Dorotea? Terminò il discorso con un sorriso, non desiderando ferire la nipote, ma in realtà pensando che forse era meglio per lei sposarsi presto con un tipo posato come Casabo, dal momento che di Cetta non voleva sentir parlare. È fantastico però, si disse mentre sgattaiolava fuori dalla stanza, è fantastico che le piaccia a lui. Comunque un buon matrimonio. Che Mrs. Cadwallader dica quello che vuole. Avrei abusato del mio potere se l'avessi ostacolato. Quasi certamente diventerà vescovo, Casabo. È stato assai opportuno questo pamphlet sulla questione cattolica, almeno un posto di decano. Gli devono almeno un posto di decano. E a questo punto devo pretendere un attimo di riflessione filosofica, osservando che Mr. Brooke in questa occasione era ben lungi dal pensare al discorso radicale che in un periodo successivo fu indotto a pronunciare sulle rendite dei vescovi. Quale brillante storico lascerebbe perdere la bellissima occasione di far notare che i suoi eroi non previdero la storia del mondo e neppure le proprie azioni? Per esempio, che Enrico di Navarra, quando era un fanciullo protestante, era ben lungi dal pensare che sarebbe diventato un monarca cattolico, o che Alfredo il Grande, quando misurava le sue notti laboriose, accendendo delle candele, non aveva la minima idea che in futuro dei gentiluomini avrebbero misurato i loro giorni oziosi con degli orologi. Ecco una miniera di verità che, per quanto sfruttata, probabilmente durerà più a lungo del nostro carbone. Ma a proposito di Mr. Brooke, farò un'ulteriore osservazione, meno giustificata della precedente, vale a dire che se avesse previsto il suo discorso, la cosa non avrebbe fatto una gran differenza. Pensare con piacere che il marito della propria nipote avrebbe avuto una grossa rendita ecclesiastica era una cosa, pronunciare un discorso liberale era un'altra. Ed è una mente ristretta quella che non riesce a considerare un argomento da vari punti di vista.